America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. 주최 배고 2016년 1월 6일 10시. Beh, il linguaggio non è facilmente interpretabile per chi non conosca il coreano, anzi dovrei dire il coreano del nord, ma è la dichiarazione ufficiale con cui la televisione di Stato di Pyongyang ha annunciato questa esplosione sotterranea, rivendicando di aver testato una bomba termonucleare all'idrogeno. Ecco, questa è la notizia con cui siamo partiti all'alba di ieri mattina. Una notizia, devo dire, devastante, preoccupante, perché pensate, una bomba all'idrogeno è 1000 volte più potente di una bomba atomica normale. Per intenderci, le bombe atomiche a cui sta lavorando l'Iran, la bomba atomica in possesso dell'India, del Pakistan, di Israele, insomma, una bomba atomica è una bomba atomica, sono del livello comunque che hanno distrutto le città di Nagasaki, di Hiroshima alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ecco, immaginate una potenza di 1000 volte quella forza devastante che abbiamo visto nei filmati proprio alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Per questo c'è stata ieri mattina una reazione di grande paura, perché non ci si aspettava che la Corea del Nord potesse avere questo tipo di tecnologia. Per fortuna poi questa notizia è stata smentita. La Corea del Nord si rivela una volta di più come un paese mitomane, un paese che rivendica di aver pronti dei missili intercontinentali per poter colpire direttamente gli Stati Uniti. Ecco, allora io direi che occorre distinguere fra le minacce, fra i livelli di preoccupazione, le necessità di intervento. Perché? Perché devo dire che siamo partiti con una settimana del primo dell'anno che forse è meglio dimenticare, perché pensateci un secondo, siamo partiti lunedì con le notizie negative in arrivo sui mercati, sulla borsa dalla Cina, l'indice di borsa cinese perde addirittura l'8%, tutte le borse mondiali quello stesso giorno hanno perso, addirittura per gli Stati Uniti a un certo punto sembrava che le perdite fossero le peggiori per la prima seduta dell'anno di borsa dal 1932. Ecco, poi subito dopo l'incidente tra Arabia Saudita e Iran, la chiusura delle ambasciate, il termometro della tensione salito al massimo, addirittura qualcuno temeva ci potesse essere una guerra, il prezzo del petrolio che è rimbalzato, il governo americano che ha fatto causa alla Volkswagen, il presidente americano in lacrime, diciamo, non è che lo vediamo tutti i giorni un presidente degli Stati Uniti in lacrime, eppure abbiamo visto anche questa nella prima settimana del 2016. Barack Obama commosso nel momento in cui ha introdotto un ordine esecutivo per limitare la vendita di armi negli Stati Uniti. Ecco, direi però che la notizia in arrivo dalla Corea del Nord, indipendentemente dal fatto che, come ci hanno detto gli americani e i coreani del Sud, poi non si tratta davvero di una bomba termonucleare, resta sicuramente la più preoccupante. Sentiamo. The underground nuclear test announced by the Democratic People's Republic of Korea on 6 January is deeply troubling. Ecco, notizia talmente importante, questa in arrivo alla Corea del Nord, che il Consiglio di sicurezza dell'ONU è stato convocato in una seduta straordinaria. Ci sono state proteste durissime, quasi simultanee, da parte di Russia, Cina, Unione Europea, Stati Uniti. E vi ho fatto ascoltare le parole del segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon. Persino l'imperturbabile Ban Ki-moon ieri è apparso agitato dopo la notizia di questo nuovo esperimento nucleare nella Corea del Nord, perché comunque sia un esperimento nucleare che ha prodotto rilevazioni pari al 5,1 dei livelli di scala Richter è stato registrato. E Ban Ki-moon dice una notizia di grande preoccupazione. Il test è una grave violazione delle norme internazionali, profondamente preoccupante, destabilizzante per la sicurezza nella regione, costituisce una seria minaccia per la comunità internazionale. Questo test è in violazione, ancora una volta, di diverse risoluzioni del Consiglio di sicurezza. A quel punto Ban Ki-moon, che ricordiamolo è originario della Corea del Sud, ha chiesto alla Corea del Nord in modo molto energico di interrompere ogni ulteriore attività nucleare e ad assolvere i suoi obblighi verso una denuclearizzazione verificabile. Parole vuote, dico io, perché queste parole continuano a ripeterle nel contesto delle organizzazioni multilaterali ormai da molti anni. I primi test nucleari della Corea del Sud risalgono al 2006, ormai quasi 10 anni fa, e poi ce ne sono stati altri nel corso dell'amministrazione Obama, un paio. Questo è il terzo collaudo nel corso dell'amministrazione Obama, che devo dire è di nuovo sotto attacco. Sentiamo Josh Earnest, il portavoce della Casa Bianca. This is a serious subject. The initial analysis that's been conducted of the events that were reported overnight, is not consistent with North Korean claims of a successful hydrogen bomb test. Ecco, Ernest ha confermato che le rivendicazioni del regime di aver testato con successo una bomba all'idrogeno non sono vere, sono semplicemente delle provocazioni propagandistiche. Tuttavia, la provocazione vera è stata nel test, come vi dicevo prima, non solo perché è in flagrante violazione delle norme internazionali, ma perché purtroppo ieri è emerso, come vi dicevo, un altro problema per l'amministrazione Obama. Qual è il problema? È che l'amministrazione Obama a un certo punto ha cominciato a interessarsi soprattutto dell'Iran. Il negoziato è stato estenuante, 2 anni e mezzo di negoziato per cercare di raggiungere un accordo molto complesso per poter denuclearizzare l'Iran. Certamente è stato un negoziato importantissimo e il risultato finale è stato un risultato di successo, ma allo stesso tempo non ci si è più preoccupati della Corea del Nord. La quale che ha fatto? Beh, nonostante embarghi, ritorsioni e parecchie risoluzioni dell'ONU che già sono state votate contro Pyongyang, per questo vi dico parole vuote, perché a un certo punto se si deve fare qualcosa che lo si faccia, perché queste dichiarazioni poi portano davvero a poco. Ecco, nonostante tutte queste ritorsioni e questi embarghi, negli ultimi 2 anni la Corea del Nord ha continuato una sua campagna di acquisti molto aggressiva, acquisti di carburante, di materiale fissile, di tecnologia per poter proseguire nei suoi obiettivi. Cosa ha fatto? Ha raddoppiato la capienza dei suoi impianti atomici e le stime che ho sentito ieri a questo punto sono che potrà avere entro la fine del 2016 addirittura 20 testate nucleari. Ecco, il vero problema è questo, un paese canaglia che si rafforza, che si sta rafforzando, che conferma di voler restare in totale isolamento, che rifiuta il dialogo. È un personaggio importante vicino alla Casa Bianca, mi ha detto, 20 testate nucleari sono un arsenale preoccupante, di tutto rispetto, e il fatto che siano le mani sbagliate non può che preoccuparci. 진해하는 동지들, 영영한 인민군 장병들과 사랑하는 온 나라 전체 인민들, 그리운 동포 형제 여러분. Ecco, qui vi ho fatto ascoltare la voce di Kim Jong-un, perché devo dire che anche la cosa che ci preoccupa molto è l'assoluta determinazione di questo dittatore assoluto, psicologicamente, emotivamente, chiaramente instabile. Sappiamo cosa ha combinato con delle fidanzate che sono sparite, uno zio condannato a morte. Ricorderete anche cosa ha fatto quando ci fu la distribuzione in America di questo film The Interview, che lo prendeva un po' in giro, era un po' una satira, e attaccò la Sony ingaggiando degli hackers e creando degli scandali a non finire. Ecco, questo signore, certamente non rassicurante, domani compie 33 anni, quindi è anche giovanissimo, e in qualche modo l'annuncio doveva festeggiare il suo compleanno. Ecco, la situazione è difficile, vi dicevo, siamo soltanto alla prima settimana del 2016 e sono già capitati eventi che sicuramente ci preoccupano, eventi che in questo caso avranno anche un impatto sulla campagna elettorale americana. Sentiamo. About Iran, the agreement was terrible, it was incompetent, I've never seen anything like it, one of the worst contracts of any kind I've ever seen, and nobody ever mentions North Korea. Ecco, vi faccio sentire il solito Donald Trump, perché devo dire è sempre piuttosto puntuale. Molti lo considerano in Italia così un personaggio totalmente improbabile. In realtà Donald Trump è riuscito a catturare l'attenzione di una buona parte dell'opinione pubblica americana, perché dice quello che pensa, senza fronzoli, molto diretto. In qualche modo è abbastanza simile al nostro ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. In America ne hanno del resto già parlato, come lui è immobiliarista, come lui è molto deciso e molto sicuro di se stesso. E dunque non stupiamoci, visto che noi stessi abbiamo avuto nel nostro paese una maggioranza che ha scelto un personaggio diverso, un personaggio che non fosse il tipico politico noioso, politically correct e così via, così via. E proprio nell'ultimo dibattito Donald Trump ha azzeccato uno dei suoi commenti, perché ha parlato proprio di Corea del Nord. E questa dichiarazione che vi ho fatto sentire è la dichiarazione chiave. L'accordo sul nucleare iraniano, dice, è terribile, è da incompetenti, il peggior accordo che si potesse fare che io abbia mai visto. In tutto ciò, dice, però, nessuno ha mai nemmeno menzionato la Corea del Nord, dove c'è un maniaco che ha già delle armi nucleari. Allora forse sarebbe il caso di iniziare a parlare proprio della Corea del Nord. Ecco, proprio per questa sua, come dire, preveggenza, ieri Trump è stato intervistato da varie stazioni televisive, in particolare dalla CNN. Sentiamo. So it's, you know, it's a terrible situation. Look, We're run by incompetent people, Sean. We need people of great competence. That's true. Ecco, qui Trump chiama in causa la Cina. Dice, beh, insomma, che se ne occupi la Cina. Ha il totale controllo della Corea del Nord e se la Cina, che dovrebbe risolvere il problema, non lo fa, beh, dovremmo rendere anche con loro i commerci molto più difficili. In realtà su questo Trump sbaglia, perché la Cina è furibonda. La leadership a Pechino non ha preso bene questa decisione della Corea del Nord di condurre questo esperimento. È stato un po' come uno schiaffo, perché l'unico vero partner commerciale della Corea del Nord è in effetti proprio la Cina. Rappresenta una sorta di bombola di ossigeno per un'economia locale che è di fatto inesistente. E il leader cinese Xi Jinping, molto illuminato, molto determinato, molto forte, partendo da una posizione appunto di forza, aveva cercato di ammorbidire le posizioni di Kim Jong-un e evidentemente non ci è riuscito. Ecco, questo è causa di grande imbarazzo per Pechino e ora dovremo capire se per la prima volta la Cina adotterà anche lei sanzioni contro Pyongyang dopo quelle che hanno adottato Stati Uniti, Europa e Russia. Di certo a questo punto, se si vorrà ottenere qualcosa, ci vorrà una prova di forza da parte della Cina, per esempio la chiusura dei confini con la Corea del Nord, di modo che l'isolamento a cui Pyongyang tiene tanto, beh, diventi davvero totale. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Direi che insomma abbiamo avuto un momento di paura, di brivido, devo dire, l'ho vissuto perché era tarda notte di martedì quando ho avuto la notizia della bomba all'idrogeno della Corea del Nord e c'era preoccupazione, perché ogni tanto davvero ci sentiamo sull'orlo della distruzione. E dunque di Barry Maguire, Eve of Destruction, la vigilia della distruzione. The Eastern world, it is exploding, violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war. But what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Don't you understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!